andati via, vedi non potrai cambiare, e viaggi per dover restare. Se vuoi ringraziare, aria non è respirare. E porterò con me anche per te. Sai come andar via, presto uscirai il foglio di via, vedi non potrai provare, viaggi per voler restare.